Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La partita della banda ultralarga è segnata da una sorta di confine, quello che separa le cosiddette aree a fallimento di mercato dalle aree come le grandi città, in cui l'economia di mercato rende attraente per gli operatori delle telecomunicazioni portare fibra ottica. Tuttavia, come vedremo questa sera, a partire da una serie di casi concreti, il confine tra questi due mondi non è così netto, soprattutto per quanto concerne proprio i costi di realizzazione dell'infrastruttura di connessione. Allora, diamo benvenuto a Mauro Fasano, che è dirigente dell'unità operativa Energia e Reti Tecnologiche della Regione Lombardia. Buonasera. Grazie, buonasera. Allora, noi ci siamo incontrati a Tirano. Tirano è un comune di 10.000 anime in provincia di Sondrio, area decisamente a fallimento di mercato, però noi ci siamo incontrati lì l'8 gennaio perché l'8 gennaio è stata inaugurata e attivata la banda ultralarga a Tirano. Allora, Fasano, qual è stato l'elemento che ha reso possibile questa eccezione? Partiamo da qui. Dunque, l'elemento che ci ha aiutato è stata un'infrastruttura esistente, tubi esistenti. Anni prima, una decina d'anni prima, una società locale teleriscaldamento a biomasse ha pensato di infrastrutturare il territorio di Tirano per il teleriscaldamento e contestualmente di metterci il famoso corrugato per un tubo in più. Il teleriscaldamento di fatto è infrastruttura FTTH, cioè arriva in ogni singola unità abitativa, e quindi questo tubo di fatto ha rappresentato un'infrastruttura disponibile e vuota che 10 anni dopo è stata utilizzata. Ecco, quello di Tirano è un esempio di un ventaglio in realtà più vasto di opportunità per ridurre i costi di infrastrutturazione in fibra ottica di un territorio. Ecco, voi di Regione Lombardia, è proprio l'ufficio che dirige, state concludendo un progetto che ha coinvolto 27 comuni e che vi ha permesso proprio di fare una mappa sia delle tecnologie sia dei costi relativi per appunto un'infrastruttura strutturazione in banda larga. Allora, intanto come nasce, ma molto rapidamente, questa operazione? Sono fondi comunitari, la stessa regola del fallimento di mercato, 27 comuni in fallimento di mercato da portare alla connettività a banda larga, quindi ADSL. Uno scavo di una tratta lunga quasi 46.000-47.000 metri, con naturalmente posa in fibra ottica. La cosa interessante è quella sui costi. Certo, noi certo. Abbiamo scavato, o meglio, no, le aziende, le ditte che hanno vinto gli appalti hanno scavato, il rapporto dello scavo rispetto al rapporto di utilizziamo infrastrutture esistenti è 1 a 4 sui costi. Ecco, e c'è tutta una graduatoria che possiamo fare, sì. E voi riuscite in questo momento a darci questi numeri perché avete provato, testato su 27 comuni questi costi. Allora, partiamo dallo scavo, che è la tecnica tradizionale, si fa uno scavo, appunto, si mette giù un cavo e lo si ricopre. Questo quanto costa? Sì, noi mediamente registriamo 70 euro al metro lo scavo tradizionale. Perfetto. Con la tecnologia No Dig mediamente registriamo 40-70 euro, dai 40-70 euro, quindi dove è più basso riusciamo a risparmiare. Ecco, cos'è la tecnologia No Dig? Diciamolo perché non lo sanno tutti. È una specie di mini talpa, no? Diciamo. Sì, la tecnologia No Dig è una specie di mini talpa che contestualmente scava e infila. Perfetto, sì. Per essere chiari. L'altra tecnologia di scavo è la mini trincea. Sì. Ecco, la mini trincea, i nostri costi medi sono 35-40 euro al metro lineare. E anche questa che cos'è? Ecco, la mini trincea è uno scavo tradizionale ma molto più ridotto, cioè noi l'impatto è veramente minore. Si fa una specie di taglio, no? Pochi centimetri? 20x30 mediamente. Fino ad arrivare ad un'altra cosa anche un po' divertente. Beh, la cosa divertente che noi abbiamo registrato è il cosiddetto aereo, no? Sì. Cioè fibra ottica è stata stesa sui pali della un'infrastruttura esistente che può essere sia pali che trasportano energia elettrica, sia pali telefonici. Quella ci è costata 25 euro al metro lineare. Quindi circa un terzo, diciamo, rispetto ai 70 iniziali. E tra l'altro questi pali, che sono quelli che siamo abituati a vedere nelle campagne, sono proprio identificativi che lì siamo in un'area a fallimento di mercato, tanto è vero che l'operatore, magari elettrico, non ha scavato come nelle città, ma ha usato un'infrastruttura più economica. È molto diffusa nelle aree a fallimento di mercato la palificata per portare servizi elettrici o telefonici. Ecco, diffusa. E lì come si fa a installare questo cavo? C'è un aspetto anche curioso. È molto semplice, c'è un robottino che va sul filo, si attorciglia la fibra ottica. Se uno va su Google in immagini riesce addirittura a vedere degli esempi visibili abbastanza. Quindi c'è questo robottino che percorre, fa un po' il funambolo, intanto che percorre questo cavo gli avvolge intorno, la fibra ottica. E qui arriviamo addirittura a 12,32 euro a metro quando riusciamo ad affittare questa panificata. Questo è quello che registriamo. Ecco, queste possibilità, diciamo, una volta di passare da un tubo, una volta di correre lungo un cavo o di prendere in affitto altre robe già esistenti, quanto spesso si presentano? Allora, nella nostra esperienza, nel progetto Digital Divide, hanno avuto un peso rilevante. Per il 51% abbiamo steso fibra nuova, quindi con nuovi scavi. Per il 49% siamo invece nella fattispecie dell'IRU, l'affitto, il diritto d'uso irrevocabile, insomma, quindi un'infrastruttura esistente utile a creare il collegamento. Va bene, allora grazie Mauro Fasano, ma noi ci risentiamo domani per andare avanti a smontare, diciamo così, questo aspetto. Grazie e buonasera. A domani.